si con il piano di tutto la fol. Ti fuci che far tut ma non so gli affer su funzion. E no pesta il finale a tanto dolor. Niño soldado tu. Secuestrata al tierno militar. Obligado a matarlo, ya no hay vuelta atrás. Y no ves el final a tanto dolor. Niño soldado tú. Soldado todo.